Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, rientrate in bottega, ma pronte a ripartire. Due dame. Allora, noi siamo due dame. Adesso sì. È ufficiale. Adesso è ufficiale che anche tu sei entrata nella confraternita degli acquavitieri da venerdì scorso. È proprio così. Ti abbiamo celebrata a Monbaruzzo. Io avevo già avuto il piacere di avere questo riconoscimento qualche anno fa. Mi hanno messo anche il mantello. Meraviglioso. Investitura con tanto di spada. Salutiamo gli amici delle distillerie Berta. Un ambiente magnifico che ci ha ospitato venerdì. E quindi, siccome avevamo lanciato anche ai nostri ascoltatori, indovinate dove andiamo oggi pomeriggio. Poi alla fine non l'abbiamo detto venerdì scorso, almeno oggi sveliamo il mistero. Siamo andati a Monbaruzzo. Esattamente, Monferrato, un posto meraviglioso. Siamo pronti a ripartire perché saremo tra giovedì e venerdì anche a Trento un'altra volta al Festival dell'Economia, ma intanto per tre giorni ci diamo una calmata. Va bene. Siamo qua ferme, tranquille. Sì, io il 31 farò un salto all'Istituto Nazionale dei Tumori per la giornata mondiale. È vero. Sì, ci organizzata ricordiamo. Dal dottor Boffi, dove saranno presenti delle tanti ragazzi delle scuole milanesi a cui cercheremo di così raccontare perché non bisogna iniziare e se si è iniziato bisogna smettere subito di fumare. Certo. Parlavi di ragazzi, Nicoletta, ed è proprio questo il pubblico al quale io mi rivolgo questa mattina con l'approfondimento di denari, perché il tema del lavoro oggi lo riaffrontiamo ancora una volta con un focus dedicato soprattutto alle generazioni un po' più fresche, diciamo così. C'è un taglio originale che abbiamo deciso di dare oggi, c'è la partenza, la pubblicazione dei bandi 2017 per la selezione di quasi 48.000 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, e quindi è una notizia importante. Oggi la affronteremo con il sottosegretario al welfare Luigi Bobba a partire dalle 11.30. E naturalmente 800 24 0024 per le famiglie in ascolto che ne vogliono sapere qualcosa di più. Allora, Deborah, dopo i giovani, noi nella parte di cuore parliamo di adulti, o meglio di super adulti, che grazie ai progressi e ai successi della ricerca sognano, perché no, di vivere 100 anni e oltre, di vivere bene. Gli studiosi sono impegnati da anni a cercare il segreto della longevità. A che punto sono arrivati? Lo chiediamo oggi al professor Giovanni Scapagnini, professore di biochimica, esperto dei meccanismi biologici dell'invecchiamento e dal 2006 collaboratore con il gruppo di ricerca dell'Università di Naha in Giappone, che studia i centenari di Okinawa. Buongiorno professore, bentornato finalmente qui. Buongiorno. Prima di sentirla, intanto naturalmente il saluto è d'obbligo, visto che ci ha raggiunto molto gentilmente qua in studio. Vi faccio però anche un rapido excursus di borsa, perché oggi riparte la settimana, un'altra settimana ricca di temi finanziari da monitorare. C'è un quadro negativo stamattina, sai che sono chiuse le contrattazioni nel Regno Unito, lo erano anche in Cina, oggi saranno chiuse a Wall Street. E tu dirai, che cosa c'hai da raccontare allora? Beh, l'Europa ci racconta qualcosa, però non lo faccio io per i nostri ascoltatori. Oggi abbiamo la consulenza di Pietro Calì, Copernico Sim. Buongiorno consulente finanziario, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi, ben ritrovati. Allora, ecco qua la situazione: Milano perde un punto, perdono meno le altre piazze europee, Parigi meno 0,18, Francoforte meno 0,04, dicevamo Londra chiusa, oggi Wall Street è chiusa per il Memorial Day, chiusa stamattina anche la Cina, ma non tutta, era aperta Hong Kong e tra l'altro quelle piazze asiatiche aperte le abbiamo monitorate per il nuovo test missilistico nordcoreano, ma a quanto pare il mercato ormai comincia proprio completamente a trascurare queste vicende. Il Nikkei a Tokyo ha chiuso sulla parità. Come si apre allora questa settimana? Perché è particolarmente turbolenta soprattutto a Milano, Calì? Che succede? Beh, appunto, l'inizio di settimana non è stato così buono. Ahimè, stiamo partendo in negativo. Le banche stanno zavorrando il listino italiano. Spaventa un po' la possibile risoluzione delle banche venete, Banca Monte dei Paschi di Siena. Ovviamente la situazione rimane complicata perché anche dal punto di vista politico l'incertezza di questo G7, in cui c'è stato un raffreddamento fra Trump e la Merkel, ecco, sta portando al ribasso i listini azionari perché gli investitori iniziano ad avere un po' paura. Sembra avverarsi un po' quello che si dice sempre, no? Say no may go away, quindi è pericoloso in questa fase subentrare sui listini. Mi scusi Calì, volevo chiederle, è un viva voce per caso? Se potesse prendere la cornetta sarebbe meglio, perché la sentiamo okay, un allora po' metallica. Grazie. Okay. Provo a spostarmi. Ok. Sì, ce la noi facciamo. La seguiamo. Ecco. Mi sentite meglio adesso? Molto meglio, grazie. Ok, eccoci. E quindi i listini stanno spaventando un po' i mercati finanziari. Ovviamente gli investitori adesso adottano una massima prudenza, perché siamo alle porte anche a un possibile rialzo dei tassi in America, e questo potrebbe comportare appunto una flessione anche dei listini americani. Allora andiamo a vederle queste banche che oggi zavorrano Piazza Affari. Sono proprio le big: il Banco BPM meno 2,31, Mediobanca meno 1,74, abbiamo un calo di un punto e mezzo su Intesa San Paolo, Unicredit, ma anche su Ubibanca e Atlantia, la ex Autostrade. Peraltro qua c'è ancora la partita aperta per la creazione del colosso europeo delle autostrade, data l'avvio appunto dell'operazione con gli spagnoli di Abertis. Per quello che riguarda le banche, per oggi le flessioni sono dovute anche al fatto che questi titoli, queste banche appunto Cali, stavano registrando un record dietro l'altro, in particolar modo per il Banco BPM, da quando è partita l'integrazione formale dal 1 gennaio tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Il mercato è stato molto favorevole su questo titolo, quindi oggi qualche presa di profitto quantomeno ogni tanto ci sta anche. Sì, anche perché appunto il mercato è stato molto favorevole e i dati dei trimestrali di Banco BPM sono stati molto positivi. Si è parlato di 117 sì. milioni di utile appunto in questo trimestre. Ovviamente Castagna, che è l'attuale amministratore delegato, appunto è stato molto prudente, perché rimane il problema degli NPL, appunto dello smaltimento di questi crediti in sofferenza. Però stanno portando avanti anche questa operazione appunto con il dialogo con numerosi investitori internazionali. Peraltro, tornando invece a Wall Street per un attimo, Cali, venerdì c'è un appuntamento importante, abbiamo la disoccupazione di maggio, quindi un test fondamentale anche per capire i prossimi orientamenti di politica monetaria della Federal Reserve. Esatto, venerdì quindi sarà la giornata cruciale. Si parla ovviamente di una disoccupazione che potrebbe ulteriormente calare. I target della Federal Reserve sono sotto il 5% e l'economia reale sta dimostrando appunto una disoccupazione intorno al 4-6%. A quel punto, se appunto verranno confermati questi numeri, la Federal Reserve avrà carta bianca, oserei dire finalmente, per aumentare i tassi di interesse e normalizzare un'economia che ha bisogno veramente più di dati economici reali piuttosto che di aiuti dalle politiche monetarie della Federal Reserve, appunto. Inevitabilmente oggi il miglior titolo è Ferrari, più 0,7%, un mercato che naturalmente, questo titolo peraltro già viaggia sui suoi massimi storici, ma il Gran Premio di Monte Carlo del weekend dà un'ulteriore spinta. Quindi vi interessano anche le tematiche sportive, Cali? Esatto, una bellissima giornata per il titolo. Veniamo da settimane molto molto positive. Ferrari ha superato per capitalizzazione anche la sua casa madre FCA. Ovviamente per l'investitore, il piccolo risparmiatore, come sappiamo, è molto pericoloso approcciarsi a questo tipo di titoli, perché diventano vere e proprie scommesse più che investimenti. Nel complesso, secondo me, Ferrari a questi prezzi è abbastanza sopravvalutata, perché se guardiamo proprio gli indici fondamentali, ecco, la paghiamo un po' cara a questi livelli. Ci sono occasioni migliori, per così dire, sul mercato finanziario italiano, secondo me. Ah, va bene, allora magari un'altra volta la invitiamo e ci dà qualche dritta anche in questo senso. Volevo fare un piccolo focus prima di salutarla sui titoli petroliferi e poi sul tema obbligazioni, perché oggi c'è un'asta importante del Ministero dell'Economia, ma un'asta altrettanto importante c'è anche domani. Cali. Sì, dunque i petroliferi hanno subito una fase di arresto importante, perché ha deluso un po' il taglio della produzione decisa dall'OPEC la settimana scorsa. Ovviamente sappiamo anche che per quanto riguarda gli Stati Uniti abbiamo una sovrapproduzione, quindi secondo me il petrolio dovrebbe rimanere abbastanza basso per un periodo un po' abbastanza lungo, e questo potrebbe penalizzare titoli come Eni, come Saipem. Per quanto riguarda il fronte obbligazionario, ovviamente siamo in una fase di prezzi molto molto alti, e quindi un po' come dicevamo le scorse volte, l'investitore italiano così abituato alle obbligazioni deve secondo me iniziare ad approcciarsi purtroppo al mercato azionario. Purtroppo dico, perché è un po' più volatile, però il valore secondo me sta più in quel comparto che in un comparto obbligazionario che ormai è appeso lassù e secondo me è destinato comunque a scendere nel medio termine. Allora, intanto stavo dando un'occhiata agli altri titoli che oggi sono particolarmente penalizzati. La carrellata di quelli che perdono oltre un punto, Moncler a 2 a Prismian, Salvatore Ferragamo. C'è un momento un po' complicato, Calì, per il settore della moda. Dopo le notizie di Salvatore Ferragamo arrivate la settimana scorsa, il gruppo ha fatto sapere che per il 2017 sarà molto attento alle strategie da portare avanti, e poi aveva avuto anche una penalizzazione molto forte dopo il downgrade, la riduzione di giudizio sul debito cinese. Uno direbbe: ma che cosa c'entra questa notizia con il business di Salvatore Ferragamo? C'entra molto, perché Ferragamo in Cina è molto presente, molto apprezzato, un brand che esprime molta parte del fatturato in quest'area. In 30 secondi la sua visione su questo settore qual è in questo momento? Ovviamente è tutto molto legato ai paesi emergenti, perché sono i principali acquirenti. Io rimango comunque positivo, perché si è parlato di downgrade della Cina, ma la Cina mantiene un debito PIL intorno al 40%, sì, confrontato con i paesi europei. Con il nostro soprattutto, esatto. Esatto, oltretutto una crescita al 6,7-6,8% sarebbe da leccarsi le dita per noi. Certo. Quindi comunque queste sono occasioni di acquisto per un settore che secondo me può dare ancora molte soddisfazioni. Grazie a Pietro Calì per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, alla prossima. Allora, guarda, proprio 5 secondi alle 10.45, anzi 10. Spacchiamo il secondino. Il capello in quattro praticamente. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade italiane tra poco. Cuore e denari. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Ma che cosa si intende per positive nutrition? Diciamo subito che è un concetto derivato dalla psicologia, dove il pensare positivo è un approccio culturale che aiuta a raggiungere una maggiore felicità. Un aspetto molto caro ai ricercatori che operano nel campo della biologia, i quali si sono resi conto che la medicina del futuro potrebbe trarre vantaggio dal concentrarsi sul mantenimento della salute a lungo termine, così da prevenire le malattie croniche, piuttosto che attendere l'insorgere della patologia e poi curarla. Io penso positivo perché son vivo, perché son medicina vivo. Del benessere, prevenire meglio che curare, questo è uno dei pilastri della longevità di cui parleremo oggi insieme al professor Giovanni Scapagnini. Siamo in diretta Facebook anche oggi, quindi potete incontrarlo, intercettarlo. Naturalmente potete scrivere anche le vostre domande sulla pagina Facebook, oltre che Deborah lo stiamo facendo via per bene, arredo al meglio il nostro appartamento, eccolo, no. Qua 800 24 00 24 è il nostro numero verde, ma anche WhatsApp al 349 238 6666. Partiamo da qui, dalla longevità, un tema, professor Scapagnini, a lei molto caro, perché si occupa di longevità, è sempre stato la grande domanda che l'uomo si è sempre fatto, ma dal punto di vista scientifico lei se ne è occupato, direi, in tempi non sospetti. Sì, buongiorno innanzitutto. Io quando ho iniziato a studiare medicina negli anni 90, anzi ho iniziato negli anni 80, il dogma era: stiamo imparando tantissimo su come funziona il nostro invecchiamento, ma scordiamoci di trasferire queste informazioni in applicazioni pratiche. Il messaggio della scienza alta negli ultimi 10 anni è cambiato moltissimo e adesso abbiamo informazioni che possono essere realmente trasferite alle persone, e questa forse è la grandissima novità. E per fare questo, diciamo, il modello che si è scelto di seguire, da dove si sono estratte le più interessanti informazioni, ho avuto la fortuna tra l'altro di intuizione di iniziare da subito a seguirlo, appunto in tempi non sospetti, era quello di guardare alle persone che stanno in perfetta salute invece che ai malati. Diciamo, il modello si classico della medicina. L'approccio, voi guardate, studiate non i malati, ma le persone che vivono bene. Perché stanno bene, se la godono, perché se la godono anche. Soprattutto invecchiano bene senza sviluppare malattie. E il tema interessante, la vera novità, è che investire sulla salute è un'attività che richiede impegno. È vero, è un allenamento. Quindi il concetto di prevenzione che noi abbiamo sempre avuto era quello di levare le cose che ci fanno male. Adesso c'è un tema nuovo, è verissimo che ci sono delle cose che ci fanno male, quindi quelle vanno sicuramente evitate, ma dobbiamo aggiungere delle cose che ci fanno bene. E questo sembra una cosa scontata, nella realtà è invece un ramo della scienza assolutamente nuovo. Perché l'obiettivo, appunto, non è evitare le malattie, ma è migliorare la salute ogni giorno. Il risultato di questo miglioramento è che evito le malattie. Allora, 800 24 00 24, che cosa avete aggiunto alla vostra vita, nella vostra quotidianità, che vi ha procurato benessere? Vale tutto. Vale un cambiamento nello stile alimentare, un'abitudine, la meditazione, il calcetto con gli amici, e vedremo se la vostra aggiunta è confermata dalla scienza o in altro modo il professor Scapagnini può farne un'ulteriore aggiunta alla vostra. Quindi siamo a vostra disposizione, ma anche per sfogliare insieme al professor Scapagnini, per rubare, no, un po' di informazioni dal libro che si intitola proprio Positive Nutrition, i pilastri della longevità, che lei ha scritto insieme a Barry Sears, l'inventore della dieta zona, che noi abbiamo avuto qui in diverse occasioni, insieme anche a Benvenuto Cestaro. Quattro pilastri della longevità: restrizione calorica, cibi, metto tra virgolette, positivi, attività fisica e tecniche antistress. Lei le pratica tutte queste quattro? Se no, alla fine dobbiamo spararle. Tutte queste virtù. È un vecchio classico, uno predica benissimo. Poi, il ciabattino va con le scarpe. Partendo dalla prima, perché è quella su cui recentemente si è parlato di più da un punto di vista anche di opinione pubblica, cioè la restrizione calorica. Noi sappiamo adesso che obiettivamente ridurre la quantità di calorie quotidianamente è forse la strategia che ha maggior impatto sulle vie della longevità, nel senso che forse è una delle migliori garanzie che abbiamo per migliorare il nostro stato di salute. È anche vero che raggiungere la cosiddetta restrizione calorica, cioè scendere veramente sotto la soglia addirittura del metabolismo basale, è durissima, è difficilmente praticabile. Non ci dimentichiamo, noi viviamo in un mondo in cui oggi la metà del mondo muore di fame perché gli mancano proprio i nutrienti essenziali, l'altra metà, che saremmo noi, moriamo di eccesso di cibo, e questo è il risultato di un processo globale difficile da controllare individualmente. Quindi ritengo che tutto il resto che ci può aiutare a, sulla base di una dieta ipocalorica, ad aggiungere salute, è altrettanto interessante, oltre la restrizione calorica. E di questo parleremo dei cibi che ci fanno bene, parleremo anche di quanto sia importante anche ritagliarci degli spazi di benessere, aggiungere proprio qualità nel quotidiano alla nostra vita. Ma ritornando alla restrizione calorica, nel libro spiegate anche come conseguire l'obiettivo senza scatenare la fame e il senso di stanchezza. Come si può fare? Beh, diciamo che ci sono vari approcci, ma sicuramente la cosa più importante è la tipologia di macronutrienti che assumiamo. Noi abbiamo per tanto tempo associato a uno dei pilastri di quella che consideriamo una sana longevità, che è la dieta mediterranea, no? Di cui siamo felici di essere, certo, tra l'altro, in qualche modo i tutori di questo bene, di questo valore, e poi nella realtà l'abbiamo abbandonata. Più che abbandonata, l'abbiamo un po' deviata verso approcci che non sono realmente collegati alla dieta che è stata dimostrata essere un potenziale pilastro della longevità e del benessere. E quindi, ad esempio, l'eccesso di carboidrati ad alto indice glicemico rappresenta un elemento che non ci aiuta per niente. Molto spesso, diciamo, ne facciamo un abuso anche nell'ambito della cosiddetta dieta mediterranea. Questo è un primo punto. Quindi la qualità dei macronutrienti è molto importante. Poi ci sono una serie di elementi che sono realmente in grado di modulare aspetti collegati, per esempio, alla gestione dell'infiammazione, dello stress ossidativo, che sono due degli elementi biochimici che maggiormente sono collegati a un invecchiamento patologico. E in questo la nutrizione veramente è un tesoro in termini di sostanze in grado di allenare il nostro organismo ogni giorno per mantenere gli equilibri che corrispondono alla salute e al mantenimento della giovinezza. Allenare le cellule a vivere meglio e più a lungo, esatto, il sottotitolo del vostro libro. Ma possiamo dire che ancora, per essere ancora più così incisivi, possiamo dire che l'obiettivo di quello che voi oggi raccontate, che è anche il frutto naturalmente dei vostri studi, è spegnere l'infiammazione. Ecco, questa parola che è diventata e sempre più comune, perché tutti ne abbiamo un'idea più o meno vicina alla realtà, ma lei ce la spiegherà. Ma quello che abbiamo capito è che alla base di molte malattie, quelle che noi etichettiamo come malattie del benessere, c'è proprio l'infiammazione, tanto che noi abbiamo detto in tante occasioni, i suoi colleghi ce l'hanno spiegato, che diabete, cardiopatie, morbo di Alzheimer, ad esempio, sono correlati tra loro e all'infiammazione. Che cosa significa? Come possiamo spegnere l'infiammazione per vivere più a lungo? È importante, un messaggio importantissimo, perché c'è, come dicono gli inglesi, un misunderstanding dietro questa cosa. Allora, no, l'infiammazione è un fenomeno biologico estremamente importante per la vita, perché è uno dei meccanismi di difesa più importanti che abbiamo per difenderci dai patogeni, per esempio. Il problema è che con l'invecchiamento si perde il controllo dell'infiammazione. Non è l'infiammazione acuta di cui stiamo parlando, è una sorta di lieve infiammazione costante collegata a una incapacità delle cellule di gestire questo fenomeno. È come se noi incendiassimo, no, un bosco e non fossimo più in grado di controllare questo incendio che lentamente si diffonde su tutto il nostro organismo. Ecco, questo nel tempo accumula danno e soprattutto porta a perdita di funzione. Perdita di funzione è uguale invecchiamento, è uguale malattia. Quindi tenere allenate le cellule significa gestire la capacità delle cellule di controllare l'infiammazione e stress. Essere un po' dei pompieri. Insegnargli a mantenere quello che quando nasciamo sappiamo fare benissimo, cioè la capacità di accendere una cosa ma anche di spegnerla. E in questo il cibo ci aiuta in maniera clamorosa. Ne parliamo naturalmente. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, state rispondendo, ci date grande soddisfazione. C'è chi ha aggiunto lo yoga, chi è andato in palestra, chi ha provato a essere se stessa, chi medita. Giovanni, lei che cosa ha aggiunto? Buongiorno, per regalarsi un pochino più di benessere. Benvenuto. Buongiorno. Eccola qua, Giovanni, vada. Senza, io faccio uso di omega 3 principalmente, che sono coloro che sono deputati a proteggere la protezione delle cellule, l'invecchiamento cellulare. Ok, cioè, lei usa omega 3, ci dia la sua ricetta. E intanto, Giovanni, io la sento pochissimo, non so se anche... Una dieta con pochi carboidrati, un pochino di proteine e molte proteine del pesce, quindi mangio molto pesce. Mangia pesce, molto pesce e omega 3. Pesce e frutta, e sta bene. Giovanni, noi non la sentiamo tanto bene, ma lei ci assicura che con questa combinazione se la passa bene. Grazie a Giovanni da Milano. Noi abbiamo un minuto, meno di un minuto, per commentare, ma io vorrei tornare sugli omega 3. Le piace, sì, Giovanni, ma omonimo? Ma pesce e frutta sono il segreto dei centenari di Okinawa, oltre a qualche vantaggino che hanno da un punto di vista genetico. No, è assolutamente vero. Gli omega 3 sono dei fantastici, proprio tornando al discorso prima, regolatori della capacità della cellula di gestire l'infiammazione, quindi ci aiutano, sono il nostro piccolo pompiere nutrizionale che in qualche modo è piaciuta, è la casa dei pompieri. Sì, perché bisogna sapere accendere l'infiammazione ma bisogna saperla spegnere, e gli omega 3 ci aiutano moltissimo a fare questo. Non fanno solo questo, hanno mille altre funzioni nella gestione delle funzioni della cellula. Allora, conoscete gli omega 3, li avete incontrati, li avete assunti? Ci sono delle evidenze sugli omega 3? Ce ne sono tantissime, tra l'altro sono, come dire, stabilite dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, sono causa-effetto, quindi a una dose corrisponde un effetto. Volete saperlo? 800 24 00 24, seguiteci, noi teniamo in studio per voi il professor Scapagnini, non lo lasciamo uscire, che sente con noi il nostro GR, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, oggi voglio aprire una breve parentesi prima di tornare a parlare con il professor Giovanni Scapagnini, naturalmente con voi che potete intervenire sempre in diretta all'800 24 00 24. Vogliamo aprire una finestra sul caso del piccolo Francesco di 7 anni di Fano, che purtroppo non ce l'ha fatta, è mancato proprio sabato all'ospedale pediatrico di Ancona, i suoi organi sono stati donati. Oggi ci sarà l'autopsia, è un epilogo drammatico che rende inopportune tutte le considerazioni relative alle scelte, alle motivazioni che hanno portato a questa fine, scelte che evidentemente sono il frutto di una cattiva informazione. Il problema è che Francesco non c'è più, e il problema è come si fa nel 2017 a morire di otite. In linea con noi abbiamo il dottor Luca Malvezzi, che è medico chirurgo, specialista in otorinolaringoiatria all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che è anche il nostro specialista del mese. Dottor Malvezzi, buongiorno. Nicoletta. Buongiorno, buongiorno. Morire a 7 anni di otite. Credo che tu abbia già detto Abbiamo già detto molto, abbiamo già detto quasi tutto, è triste. È triste perché, come dici tu, questo parte da una cattiva informazione e da falsi miti. Non bisogna avere paura della farmacologia, bisogna usare il buon senso davanti a qualsiasi malattia. Io non sono contro l'omeopatia in senso lato, però bisogna avere il buon senso di utilizzare la medicina nel modo corretto. L'omeopatia va benissimo per curare un raffreddore, nessuno mai si sognerebbe di somministrare antibiotici o altro per una patologia di questo tipo, ma quando c'è un'infezione anche seria in un organo che è al confine col cervello, quindi un organo importante, bisogna avere il buon senso di curare nel modo corretto questa patologia, e quindi è sempre importante non sottovalutare i sintomi. Se i sintomi persistono, se il dolore persiste, se la febbre persiste, l'omeopatia è insufficiente, bisogna passare agli antibiotici, bisogna passare al cortisone quando serve, bisogna passare da uno specialista che somministri le terapie corrette, a volte anche ospedalizzando in alcuni casi il malato, in questo caso il piccolo ragazzo. E questo è importante sempre per qualsiasi forma infiammatoria, per qualsiasi patologia. Quindi il punto cardinale è quello: non trascendere in una medicina non corretta, affidarsi alla medicina e ai medici che sanno fare il loro lavoro, fidarsi delle corrette informazioni, cercare le informazioni corrette e curare bene. Abbiamo parlato in tutto questo mese di medicina di precisione, certo. di cure specifiche per ogni patologia. Qui non si entra, qui si esula dalla medicina di precisione. Purtroppo questo è un caso drammatico che richiama anche alla mente tutta la bagarre mediatica che in questi mesi c'è, cioè, sui vaccini. bisogna imparare a non leggere male le notizie che arrivano dal web e dai media, bisogna affidarsi a percorsi certi, non a percorsi incerti che possono aprire scenari di questo tipo. Dottor Malvezzi, noi l'aspettiamo domani per una puntata in cui tireremo un po' le somme di questo mese dedicato all'apparato respiratorio. Intanto la ringrazio e le auguro una buona giornata. A domani. Grazie, io a voi tutti. Buona giornata a tutti. E noi torniamo a parlare di Positive Nutrition insieme al professor Scapagnini, che insieme a Barry Searse e a Benvenuto Cestaro ha scritto questo bel libro che racconta i pilastri della longevità, una ricetta che permette di allenare le cellule a vivere meglio e più a lungo. C'è una svolta. Oggi voi si approccia alla salute in un modo diverso, Alberto Pelai direbbe con un altro paio di occhiali, non studiate i malati ma studiate i sani, e soprattutto oggi potete misurare la salute, che è veramente una conquista e non è stata facile. Che cosa significa esattamente, e nella vita di ciascuno di noi come entra questa conquista? Bene, questa è la svolta che permette di trasformare il buon senso in una vera scienza, cioè la Positive Nutrition si pone l'obiettivo, e questa è un po' la seconda domanda, di aggiungere del positivo alla propria salute ogni giorno, e se io sto bene posso stare meglio, quindi non devo aspettare di star male per intervenire in maniera positiva sulla mia salute. Per poter fare questo da un punto di vista scientifico devo essere in grado però di misurare qual è il mio livello di salute, e questo ci ha permesso, oltre che andare a studiare i centenari che sono un modello positivo, loro hanno un segreto che hanno raggiunto spesso inconsapevolmente, ma sono fantastici da studiare, anche nei soggetti che non sono ancora centenari posso capire, misurando la salute, l'impatto di alcuni nutrienti o di alcune sostanze alimentari o di altre strategie come l'attività fisica o anche allontanare lo stress con tecniche, per esempio come la meditazione, ecco, questo effetto come impatta sul mio livello di salute. Normalmente noi quindi lo misuriamo, non parole, ma numeri. E non sensazioni, noi lo misuriamo con le nostre performance, anche con l'attività sessuale, con il benessere mentale, la capacità di imparare e di vivere il mondo ogni giorno, ma possiamo anche misurarlo, e questo ci permette di capire il vero impatto di alcune sostanze e di costruire una scienza positiva. Intanto noi vi abbiamo chiesto di raccontarci all'800 24 00 24, potete scrivercelo su Facebook, su WhatsApp, insomma, che cosa avete aggiunto di buono nella vostra giornata, qualcosa che vi ha fatto stare bene, di cui notate, anche se naturalmente nessuno di noi può misurarli, notate comunque dei benefici, un miglioramento. Stavamo parlando di omega 3, ci arriviamo subito, ma abbiamo Alessandro, Giovanni e Anna che si mettono in contatto con noi, e allora professor Scapagnini la facciamo lavorare. Certo. Alessandro, buongiorno da Roma. Buongiorno professor Scapagnini. Buongiorno. Le volevo chiedere questo, io ho aggiunto in più delle passeggiate, ero un pigrone e ho cominciato a camminare e mi piace, scoperto che mi piace. Bravo, anch'io cammino, Alessandro, e dopo quasi non se ne può più fare a meno, vero? Sì, è vero, a un certo punto sembra che uno non vuole neanche più smettere di camminare. E cammina Alessandro, ci incontriamo, lei venga su da Roma, io scendo da Milano, ci incontriamo d'accordo, a Firenze. Sarebbe molto bello, veramente. Allora, volevo chiedere, professor Scapagnini, allora, io mangio molto pesce, e molto pesce crudo, però abbattuto, quindi controllato. Cioè, voglio dire, gli omega 3 rispetto al fatto del cotto o del crudo cambiano o no? Sono gli stessi, e concludo. I frutti di mare, mangiati cotti in questo caso, aiutano o no? Contengono omega 3 o no? Perché così Alessandro com'è, si sacrifica. Sì, no, ma sono Scapagnini versione allora, chef, via. Sono le domande pratiche, quelle che poi ci danno un po' di luce su che cosa fare. Allora, gli omega 3 sono degli acidi grassi essenziali, molto stabili alle temperature, non cambiano stato. Questo fa sì che il pesce li accumuli, il pesce non li fa, li prende dalle alghe. E li accumula per non congelare, però questo rende queste sostanze anche stabili alle alte temperature. Quindi tendenzialmente il problema non è crudo o cotto, il problema è la qualità del pesce, perché il pesce non facendoli deve prendere dalle alghe. E per prendere dalle alghe deve essere un pesce selvatico o deve essere allevato con mangimi che contengono omega 3. E il problema è che le etichette spesso in assoluto non ci danno informazioni sul quantitativo. In generale i pesci grassi dei mari del nord sono tendenzialmente più ricchi di queste sostanze, il salmone è l'esempio classico, ma c'è una buona strategia soprattutto nei mesi freddi, che è il piccolo pesce azzurro del Mediterraneo, un'ottima fonte, e quello normalmente, non essendo allevabile, sempre dopo essere stato abbattuto, perché effettivamente comunque può portare altre tipologie di problematiche. Quindi sgombri, alici, sardine, fantastiche, soprattutto nei mesi freddi. Allora, professor Scapagnini ci racconterà poi quali sono le evidenze degli omega 3, ma un ascoltatore dice: non facciamo prima allora mangiare le alghe? Allora, le alghe... Dato che i pesci si mangiano le alghe... Allora, le alghe, quelle edibili, cioè quelle che possiamo mangiare, dovremmo mangiarne grandissime quantità come fanno i pesci, che non è detto che sia una cosa fattibile, anche perché non si reperiscono con questa facilità, ma soprattutto non contengono immediatamente una grandissima quantità di omega 3, ce ne hanno, però normalmente quello che ormai si inizia a fare in maniera anche molto efficace è estrarre gli omega 3 dalle alghe. Questo tra l'altro è molto interessante per i vegetariani, perché è una fonte di omega 3 assolutamente vegetale. Se noi mangiamo solo alghe, il quantitativo rispetto al pesce che li accumula in maniera attiva perché gli servono è decisamente più scarso, dovremmo mangiarne chili. Allora, invece Salvatore, perché è molto vivace questa dibattito, io gli omega 3 li prendo dai semi di lino macinati. Sono a catena corta e li devi trasformare in catena lunga per metterli nelle cellule, cioè per l'attività da pompiere, quella della zona infiammatoria, e tutte le altre azioni degli omega 3. Quindi non servono? No, servono assolutamente, solamente che noi assumiamo parallelamente tantissimi omega 6 a catena corta e competono un po' tra di loro. Da un punto di vista biochimico, cosa vuol dire competere? Cioè, nel senso che la capacità di trasformarli si annullano i benefici, no, però diciamo che non siamo necessariamente bravissimi a trasformarli velocemente in nella forma che a noi serve. Quindi fantastici, l'olio di semi di lino è un'ottima fonte, come anche altre. C'è la portulaca, che per esempio è una verdura selvatica, sì, che costa 2 lire ed è piena di omega 3 a catena corta. Però non è la stessa cosa degli omega 3 a catena lunga, quelli sono pronti per essere utilizzati dalle cellule, quindi quando li assumo hanno un effetto immediato. Questi altri li devo trasformare, non tutti sono bravissimi a farlo. Giovanni, stia lì, anche Anna, a proposito di effetti, quali sono quelli che sono proprio provati a seconda delle... Ce lo dice, allora, diciamo, esistono a bassi dosaggi, diciamo, l'essenzialità, nel senso che serve a far funzionare la nostra biologia, 250 mg di servono per il cuore, 250 mg di una varietà un po' più lunga che si chiama DHA servono al cervello e all'occhio. Se vogliamo andare sul funzionale ci vogliono 2 grammi di omega 3 per abbassare i trigliceridi e ce ne vogliono 3 per abbassare la pressione. Queste sono le indicazioni stabilite, come dire, dose effetto, dall'Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare, dall'EFSA, che è la nostra FDA. È chiaro che non sono solo questi i vantaggi, qua non si parla di pompiere, per esempio, l'azione antinfiammatoria. Che lei ci ha spiegato bene. Dipende anche dalle capacità del soggetto, dall'età, dal sesso, dal resto delle attività che vengono svolte. Però questi punti sono i punti di partenza per un approccio razionale all'utilizzo. E diciamo che sopra i 3 grammi è un dosaggio che diventa un pochettino eccessivo, cioè nel senso che va associato a situazioni più patologiche, certo, e non abbiamo ancora grandi dimostrazioni assolute, chiarissime. Pensando agli omega 3, professor Scapagnini, noi andiamo a parlare del grande mondo degli integratori, così li viviamo. Ecco, allora la domanda è: faccio dei cicli? Quando eravamo piccoli, le nostre mamme facevano un po' la cura ricostituente, oppure ci accompagnano a basso dosaggio senza necessariamente il consiglio del medico, così come delle sostanze che ci aiutano a funzionare bene, ci mantengono bene. Qual è la differenza? Allora, senza quel tipo di quantità noi andiamo in problematiche da deficit, perché sono sostanze essenziali, cioè noi non le sappiamo fare e ne abbiamo bisogno per vivere, un po' come le vitamine. Quindi il dosaggio minimo è fondamentale per la vita. Il dosaggio più elevato invece aggiunge del positivo e migliora delle funzioni metaboliche o di protezione nei confronti di infiammazione e invecchiamento. Questo è un aspetto da tenere veramente a mente. Però ricordiamoci che una porzione di salmone contiene anche 3 grammi di omega 3, quindi ce n'è veramente tanto, solo che vado a trovare un salmone selvatico. Ecco, cioè in natura, quando eravamo, diciamo, uomini cacciatori, raccoglitori, la quantità di omega 3 era veramente abbondante. Molti pensano che il nostro cervello si è creato grazie agli omega 3, cioè quindi la quantità nella dieta tempo fa era notevole. Le cose sono cambiate, quindi adesso siamo abbastanza obbligati ad andare a cercare delle fonti pure, sicure e dosate di queste sostanze. Allora, Giovanni, buongiorno, l'abbiamo fatta attendere, benvenuto, eccola qua. Sì, buongiorno a voi, buongiorno professore. Buongiorno. Niente, io volevo parlare un attimino del mio caso. Io ho 52 anni e ho sofferto sempre di colon irritabile. E questo però non mi ha portato mai a fare una vera e propria dieta, ho sempre fatto un po' come mi pare, insomma, con il cibo, fino però a poi dover dare un limite perché mi è venuta una diverticolosi. Sì, Giovanni, però io devo stringerla un po'. Sì. Venendo al sodo. Diverticolite, e ho dovuto per forza fare, diciamo, una dieta più moderata, insomma. Più. Quindi... E da questo, evitando il lattosio ed integrando appunto degli alimenti che contengono comunque omega 3, ho notato un miglioramento. Per esempio, ho sempre sofferto di mal di testa per 30 anni, 40 anni. Io non soffro più di mal di testa, per esempio. Non so se questo... Quindi lei, Giovanni, ha dovuto fare di necessità virtù. Non possiamo interpretare il caso clinico sulla base di queste chiacchierate, anche perché c'era un problema vero. Però mi sembra un classico caso di controllo dei processi infiammatori. Sia il mal di testa che soprattutto l'intestino irritabile sono due classici fenomeni associati a una mancanza di controllo e infiammazione. Spesso per l'intestino è, come dire, attivato anche da intolleranze. Nel caso del signore si parlava di lattosio. Però è chiaro che è difficile fare adesso un quadro reale, però sicuramente lui ha attuato quello che stiamo dicendo, cambiando la dieta è riuscito a migliorare la capacità di gestione dei processi infiammatori e questo ha fatto bene anche alla sua testa oltre che al suo intestino. Allora, un'ascoltatrice, Anna, le chiede: metto un cucchiaino di polline ogni mattina nel muesli per avere un apporto proteico. Faccio bene? Beh, sul polline io non credo che ci sia un impatto proteico così elevato. Diciamo che le proteine, soprattutto quelle ricche di aminoacidi essenziali, li prendiamo da altre fonti vegetali e moltissimo da fonti animali. Il polline, soprattutto un piccolo quantitativo. In termini proteici credo che abbia un impatto molto rilevante, però che sia una cosa molto carina. Però ha altri vantaggi il polline. Sì, beh, noi deriviamo dalle piante, anche dai fiori, è una cosa anche molto poetica. Però. Raccontiamo la fiamma dell'ape sul fiume. Allora, Diego da Roma ci invita a fare degli esempi concreti. Esatto. E di parlate solo degli omega 3, è vero. Abbiamo parlato sinora degli omega 3, ma adesso tiriamo fuori anche i polifenoli, assolutamente, professore. Ma soprattutto anche alcuni superalimenti di cui parlate nel libro. Beh, molti di questi superalimenti sono caratterizzati dal grande quantitativo di polifenoli. Uno ce l'abbiamo a casa, anche se si fa presto dire olio d'oliva, ed è l'olio d'oliva. E guarda caso, proprio l'Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare, l'EFSA, che è quella che dà le indicazioni salutistiche, ha approvato per l'olio d'oliva una indicazione sulla protezione in maniera indiretta del danno dell'aterosclerosi, cioè abbassa le LDL ossidate, un termine orrendo da dirsi, sì, ma insomma il colesterolo cattivo. Ma quello veramente cattivo, cioè quello che va a fare le placche aterosclerotiche. Direi che fa la funzione di spazzino, vede però, che glieli dopo il pompiere lo spazzino. Esatto, però in questo caso, no, ma è sempre un problema di infiammazione e stress ossidativo, anche in quel caso, e la indicazione è collegata al quantitativo di polifenoli. Ora, i polifenoli d'olio d'oliva dipendono da come lo fai l'olio d'oliva. Quindi questo è un bel tema, perché la qualità del cibo noi l'associamo spesso al gusto, al ciclo di produzione inteso come biologico. Dovrebbe essere sempre più associato alla funzione, al mantenimento delle sostanze contenute all'interno che hanno un impatto sulla nostra salute. Allora, un olio di qualità è un olio ad alto contenuto di polifenoli perché realmente migliora le prospettive di salute nel tempo, almeno quelle cardiovascolari, che poi significa però tutto l'organismo. L'olio d'oliva è un esempio perché ce l'abbiamo da vicino, ovviamente extravergine, macinato a freddo, ma soprattutto pieno di polifenoli, cioè non basta come l'hai fatto, dipende alla fine dipende che cosa c'è dentro. Dipende anche come farlo bene. I polifenoli sono sostanze che ci sono nel mondo vegetale, in moltissimi altri frutti e verdure. E, diciamo, io ho lavorato molto sulla curcumina, che è il pigmento giallo del curry, una delle caratteristiche io tutte le volte che aggiungo la curcuma penso al professor Scafagnini perché allora sì, mi sento meglio, anche perché più di una nostra amica qua ha scritto, dice delle cose validissime, ma è anche un bell'uomo e noi l'abbiamo invitato apposta. Vabbè, sarà comunque la curcuma. Quando noi aggiungiamo la curcuma perché sentiamo che fa molto bene eccetera, l'aggiungiamo in cottura nei nostri intingoli, ecco. Non è che l'assorbiamo tutta, cioè bisogna anche in questo caso paradossalmente quando la cucini, soprattutto se c'è una matrice oleosa e del pepe nero, è strana questa cosa, migliora un po' l'assorbimento. La curcuma ha un effetto fantastico sull'intestino, si parlava di quel signore prima, sì, del esatto, ha un'azione quasi topica sull'intestino. Vada di curcuma, che non vuol dire mangiarla a cucchiaini. Sì. Però si assorbe molto poco, questo è un grosso difetto. Se la si associa ad olio e al pepe, migliora molto l'assorbimento. Guarda caso il curry è in matrice oleosa, cioè si mette e c'è già il pepe nero. E la curcumina è solo un esempio, ci sono polifenoli molto più biodisponibili. Ad esempio, i frutti di bosco, sì, contengono antocianine che vengono molto facilmente assorbite e hanno un impatto incredibile sulla regolazione dell'infiammazione e soprattutto sul controllo della glicemia. Ma ecco, quando dite frutti di bosco, e adesso anche inizia la stagione, presto, si fa presto a dire, perché poi li trovi, dove li trovi, non è che puoi andare a coglierli e c'è il tuo orticello. Anche lì, come quantità, perché faccia un effetto. Se ci vogliamo rifare ad uno studio che è diventato un classico della letteratura scientifica su Circulation, uno studio fatto si chiama Nurse Study 2, su una migliaia di persone, 3 porzioni a settimana da sole abbassano il 30% di rischio di infarto. Quindi stiamo parlando di poco. Il bello di queste sostanze è che ne basta poco, però se non ce l'hai, cioè il poco non è nulla, quindi se non ce l'hai non hai l'impatto positivo. Però non devi raggiungere dei quantitativi mostruosi. Cioè, un'altra sostanza incredibile è il cacao, ne parlavamo prima, che non è il cioccolato, ma sono i polifenoli contenuti nel cacao, i flavanoli. In particolar modo le epicatechine. Di nuovo l'EFSA, cioè l'Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare, ha approvato un'indicazione salutistica sul miglioramento del flusso sanguigno periferico. Se migliora il flusso sanguigno periferico, migliora l'ossigenazione dei tessuti, quindi migliora il nostro cervello, migliora il nostro cuore. E l'impatto è fortissimo. Allora, facendo la spesa quindi, omega 3, poi ci aggiungiamo che frutti di bosco assolutamente, olio extravergine d'oliva, me ne dia un altro che così la salutiamo, la curcuma mettiamogli un po' di cioccolata fondente, visto che è la cosa più facile. L'ideale sarebbe avere proprio la polvere di cacao, però non sempre è così facile da reperire. Se dobbiamo scegliere un po' di cacao, di cioccolato, prendiamo la iperfondente con pochissima parte grassa. Allora, questo è tutto. Naturalmente noi adesso passo subito la parola a Deborah, che deve fare i mercati, poi aspetti un grande ospite. Abbiamo un sottosegretario stamattina, sì. Allora gli lasciamo tutto lo spazio. Il professor Scappagnini scappa di nuovo, speriamo di rincontrarla presto qua in studio. Intanto Positive Nutrition, i pilastri della longevità, insieme al grande Barry Sears e al professor Scappagnini, che avete potuto godere oggi anche in diretta Facebook, e a benvenuto a Cestaro. Professore, grazie, alla prossima. Grazie, vedrà quanto noi alla prossima, certo, perché da qui a 100 anni adesso, 120, da qua a 120 anni ormai che ci siamo conosciuti, non possiamo che dire arrivederci. Invecchieremo insieme. Grazie, bene, prof. Grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Avanti, muoversi, imbranati, in fila! Muoversi, pelandroni! Qualche malattia da dichiarare? Anemia, diabete, nefrite, sinusite, congiuntivite, sinovite, tachicardia, epatite, ulcere, emorroidi, sospetto di TBC, ballo di San Vito, morbo di Cianciin, colite, gastrite, ginocchio della lavandaia, blocco cervicale, labirintite, scorbuto o scorbuto, non lo so perché a me mi frega sempre la virgola, pancreatite, rachitismo e mixedema. E poi, signor Maggiore, vede, c'ho questo piccolo difettuccio. Abile arruolato! Appunto. Eccoci qua di nuovo in diretta, volevamo partire in maniera così un po' divertente richiamando questo sketch di Enrico di Leva. Montesano, esatto. Era un momento importante, ancora gli andrologi si lamentano perché vero? Era un momento in cui si faceva un po' il punto della salute, esatto, del Andrea ragazzo. Andrea Salonia sarebbe stato soddisfattissimo di parlarne con noi questa mattina, magari gli chiederemo un commento su quello che è venuto a mancare anche ai giovani ragazzi con il fatto appunto che la leva non sia più obbligatoria, il servizio militare non è più obbligatorio. Allora sto cercando di capire se il nostro ospite sta rispondendo al telefono, non lo so, lo racconterò io, Nicoletta. Va bene, se no ribecchiamo io al volo civile. Il professor Scappagnini, che abbiamo fatto uscire dallo studio, ma che poi... Allora, ripetiamo. Intanto vediamo se Marco riesce a recuperarlo al telefono, intanto lo rifaccio il preambolo appunto della trasmissione di questa mattina. Servizio militare, dicevamo, non più obbligatorio, e la visita di leva che non è più quel rito di passaggio che talvolta permetteva anche di scoprire qualcosa sulla propria salute. Allora, questa circostanza permette anche di non vedere più il servizio civile come talvolta accadeva, con il pregiudizio di chi pensava che il cosiddetto obiettore fosse solo qualcuno che voleva schivare la naia. Oggi, con il servizio civile volontario, a partire dal 2005, ma al tempo stesso con la forte crisi economica e dell'occupazione, è forse anche un'altra l'ottica con la quale si tende a vedere questo tipo di scelta, una possibile strada per entrare nel difficile mercato del lavoro. Proprio pochi giorni fa sono stati pubblicati i bandi 2017 che offrono ai giovani italiani la possibilità di poter scegliere di partecipare ad oltre 1800 progetti in Italia e all'estero. Dove e quali sono queste opportunità, come si partecipa e possono rappresentare una porta d'ingresso al mercato del lavoro? Non credo che, appunto, siamo ancora in diretta con il sottosegretario, sarà stato chiamato dal ministro Poletti, non e so cosa darsi. Sia noi successo aspettiamo. Questa mattina, sì, speriamo che si faccia vivo, perché dopo aver negoziato per 3 giorni per questa intervista adesso sarebbe anche non tanto carino appunto se non venisse in diretta. Comunque il tema è magari io faccio una cosa, chiedo ai nostri ascoltatori se vogliono darci una mano questa mattina. Adesso non voglio ricordi sul servizio di leva, sul militare, ma magari chiederò, mi piacerebbe sapere da qualcuno se ha optato appunto per il servizio civile o se all'interno della famiglia si sta discutendo di questa opportunità per i propri figli. Peraltro è un'opportunità aperta ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni e quelli che sono appunto interessati ad una esperienza che il governo ha ribattezzato di cittadinanza attiva nei settori dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e della promozione culturale, è appunto un'opzione aperta per i ragazzi fra i 18 e i 28 anni. Mi ha colpito molto anche il range, no? Perché tu immagini che magari tra i 20, al limite ai 25 siano già a percorso universitario chiuso, e così l'idea di aver già cominciato ad esplorare le opportunità del mercato del lavoro. Invece addirittura c'è qualcuno che magari a questa età, da ben adulto, certo, si interroga se fare un'esperienza di perché questo tipo. Perché tra i 18 e i 28. Quindi... Tra i 18 e i 28. Allora le do io alcune indicazioni su dove si possono trovare le proposte fra cui scegliere. C'è un sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it e qui tutti gli interessati possono trovare pubblicati i bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile Nazionale, delle regioni, delle province autonome, e in ballo c'è una selezione che riguarda ben 47.529 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero. Però c'è un limite, una data in cui magari presentare, allora, sì, le domande? Mi risulta che le domande di partecipazione alle selezioni devono essere inviate direttamente agli enti titolari del progetto entro fine mese e prossimo, entro il 26 giugno, entro le ore 14, anzi. Ah, proprio c'è anche, sì, l'ora. Esatto, alle 14.02 non si riceve più però nulla. Ce l'abbiamo. Sottosegretario Bobba, mi ha fatto sudare un po' in diretta, ho raccontato quasi tutto io, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Non si preoccupi. Allora, intanto ho fatto un po' di preambolo rispetto a tutta questa operazione, che in realtà è duplice, sottosegretario, quindi vado subito al sodo con lei, perché sono partiti, appunto, sono stati pubblicati i bandi 2017 per i progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero per quest'anno, ma contestualmente è entrata anche in vigore la normativa che istituisce il servizio civile universale. Ci faccia lei un biglietto da visita di entrambi i progetti, di entrambe le operazioni, e come si accavallano, intrecciano, appunto, come incontrano le due strade. Cominciamo con il bando. Il bando, appunto, è stato lanciato pochi giorni fa e, come ha detto lei, scadrà il 26. Ci sono circa un po' più di 50.000 posti a disposizione. È, diciamo, il bando più numeroso nella storia. Sono stati finanziati quasi 4.800 progetti degli enti che hanno presentato e che sono accreditati per fare il servizio civile. C'è dunque una grande opportunità per tanti giovani di poter dedicare un anno per fare un servizio, per imparare delle cose, per mettersi al lavoro dentro una comunità. Tutto questo mentre nel frattempo è diventata legge la riforma del servizio civile, che non si chiamerà più servizio civile nazionale ma servizio civile universale. Universale che significa? Significa che il servizio civile rimane volontario, cioè è una scelta da parte del giovane, così come lo è stata da 15 anni a questa parte. Però le istituzioni si impegnano gradualmente a predisporre le risorse affinché tutti i giovani che decidono volontariamente di fare servizio civile lo possano fare. Adesso c'è un partito che erano almeno, ecco, siamo cresciuti da 15.000 a 35.000 a 50.000. Mm-hmm. La seconda novità della riforma è che la legge prevede che ci sia la possibilità di svolgere anche fino a 3 mesi questo servizio in un altro paese dell'Unione Europea, con un'associazione gemellata o un comune gemellato. La terza novità importante è che il servizio civile è aperto interamente anche ai cittadini non italiani, purché regolarmente residenti, sia comunitari che non comunitari. Una quarta novità che non durerà, diciamo, necessariamente un anno, avrà una durata flessibile tra 8 mesi e 12 mesi. Naturalmente queste regole sono in corso di applicazione. Un'altra ancora novità è che i progetti saranno in qualche modo premiati, i progetti futuri, se gli enti sceglieranno dei ragazzi con meno opportunità, in modo da fare del servizio civile anche uno strumento di inclusione dei giovani che hanno meno, hanno più difficoltà ad inserirsi nella vita sociale, nella vita lavorativa. Chiarissimo. Insomma, Sottosegretario, no, una curiosità che ci ponevamo con la collega, con Nicoletta Carbone, poco prima appunto che lei entrasse in diretta, è il range dell'età previsto per poter partecipare ai bandi 2017, poi adesso non ho presente se valgono anche questi limiti per la partecipazione alle iniziative di servizio civile universale, 18-28 anni, è molto ampia e soprattutto una scelta di questo tipo si può fare anche in età molto adulta, è una scelta precisa questa, insomma, per che avete fissato, sono fissati parametri così ampi? Perché a 28 anni immaginiamo già che una persona possa già essere inserita nel mercato di lavoro, insomma magari il servizio civile essere visto, non so, come una sorta di anno sabbatico per mettersi a disposizione della società civile. Sì, in effetti questa durata, questo tempo entro cui si può fare il servizio civile, da molti anni che è così e coglie, diciamo così, forse anche una domanda. È vero che se guardiamo alle statistiche che abbiamo, la maggioranza dei giovani sono nell'età centrale, diciamo così, no? Non quando hanno 18 anni, magari quando hanno 22-25, quindi, però abbiamo tenuto sempre un range più ampio in modo da consentire, per esempio è possibile anche se uno già lavora mettersi in aspettativa e per un anno e svolgere il servizio civile, quindi diciamo, è comunque una opportunità flessibile che credo sia bene sia mantenuta aperta per i giovani proprio in questo arco di età. Prima che diventi pienamente operativo il servizio civile universale, manteniamo l'attenzione sui bandi per la partecipazione al servizio civile nazionale secondo l'attuale configurazione legislativa, sottosegretario Bob. Allora, quante domande può presentare un giovane interessato ad una di queste opportunità? Può presentarle una sola domanda. Cioè praticamente va sul sito del Dipartimento, c'è un motore di ricerca che ti fa vedere tutti i progetti che sono stati approvati, quali sono gli enti che hanno presentato quei progetti, e scegli il progetto e l'ente e il luogo dove ritieni di poter, diciamo così, meglio svolgere il servizio civile o ti interessa di più, dall'area socioeducativa a quella socioassistenziale, dalla protezione ambientale all'agricoltura sociale, insomma ci sono diversi campi e il giovane che sceglie ma deve presentare una sola domanda di servizio presso l'ente, poi sarà l'ente che convoca tutti i giovani che hanno presentato la domanda e farà un colloquio di selezione con dei criteri che sono standard per tutti gli enti e a quel punto deciderà se e come ingaggiare, diciamo, quel giovane. Naturalmente ci sono progetti e enti che sono più gettonati, altri meno, e quindi dipende un po' dagli interessi e anche dall'attenzione che hanno i progetti. Dalle vocazioni. Sottosegretario Bobba, le chiedo un minuto di pazienza perché sentiamo cosa succede sulle strade italiane, poi ancora un altro paio di domande per lei, solamente un attimo. Cuore e denari. Noi siamo i giovani a caccia di opportunità anche professionali, ma intanto c'è chi vuole fare un'esperienza di tipo diverso e si candida per partecipare ad uno dei bandi 2017 per il servizio civile nazionale. Sono stati pubblicati appunto proprio i 2017 da qualche giorno dal Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile Nazionale, un'opportunità appunto che il governo chiama esperienza di cittadinanza attiva, intanto che parte e la cornice legislativa appunto sta completandosi il servizio civile universale. Con noi questa mattina per parlare di tutto questo il sottosegretario al lavoro Luigi Bobba. Le domande degli ascoltatori all'800 24 0024. Velocissimo, Stefano da Bari, buongiorno. Lei lo ha fatto il servizio civile, buongiorno. Allora sì, salve, no, io sono 83, quindi forse l'ultimo obiettore della storia la Puglia. Allora io all'epoca ero studente in conservatorio. Il conservatorio, a differenza dell'università, non poteva, non ci si poteva fare il rinvio tutti gli anni, ma in determinati anni particolari optai, con tutto che feci il servizio di leva e ebbi il massimo, nel senso che andò bene tutte le prove, però optai per fare l'obiettore di coscienza. In realtà questa esperienza mi è servita tantissimo, lavorare con dei minori a rischio, perché poi adesso che faccio il professore di strumento alle scuole di indirizzo musicale, quell'esperienza di aiutare questi ragazzi a rischio mi è comunque servita, è stata un'esperienza molto importante, piuttosto che andare a perdere tempo a fare il militare. Andare a perdere tempo a fare il militare, grazie Stefano. Allora, effettivamente, sottosegretario Bobba, lo dicevamo in apertura di programma, in passato fare il servizio civile equivaleva un po' a schivare la naja, oggi invece c'è un approccio radicalmente diverso a questa esperienza, secondo anche quello che stiamo raccontando questa mattina. Oggi l'idea invece è candidarsi magari ad un'opportunità professionale, entrare da un'altra porta nel mondo del lavoro. Per chi la vede in questa maniera, sottosegretario, che messaggi possiamo lanciare magari anche a quelle famiglie che suggeriscono ai propri figli di fare un'esperienza di servizio civile per valutare se esiste un settore nel quale candidarsi anche, no, per il lavoro? Guardi, anch'io sono stato obiettore di coscienza, quindi ho fatto il servizio civile alternativo a quello, quello militare ormai più di 40 anni fa, però è stata un'esperienza molto formativa. Io credo che per i giovani che oggi scelgono di fare il servizio civile siano importanti tre cose. Prima di tutto una formazione personale all'impegno civico volontario. Secondo, realizzare effettivamente un servizio per la comunità, per la realtà in cui sono impegnato come servizio civile. E terzo, portarsi anche a casa delle competenze utilizzabili poi nei successivi percorsi formativi e lavorativi. Sono le tre cose che emergono dalle indagini che abbiamo fatto l'anno scorso in modo molto importante, e i giovani per l'87% dicono sì, siamo soddisfatti dell'esperienza che abbiamo fatto. Ecco, io credo che l'impegno nostro debba garantire, cercare di creare le condizioni perché tutti i giovani possano dire sì, ne è valsa la pena di fare questo anno, ne è valsa la pena perché mi sono formato, ne è valsa la pena perché ho fatto qualcosa di utile per la comunità, ne è valsa la pena perché ho imparato, ho acquisito delle competenze che poi dopo mi porto dietro nella mia esperienza lavorativa. Ecco, ma al di là della formazione, appunto, della competenza che ti serve anche per formarti a livello caratteriale e quant'altro, esistono delle esperienze di servizio civile, sottosegretario Bobba, che si trasformano in contratti di lavoro? Voi monitorate anche eventualmente questa trasformazione di esperienza di cittadinanza attiva in opportunità professionale che diventa stabile? Cioè il Ministero del Lavoro lo fa? Guardi, fatto di recente appunto questa indagine, abbiamo visto che circa un terzo dei giovani o proseguono all'attività diventando un'attività lavorativa professionale nell'ente, nella cooperativa, nella realtà associativa dove hanno svolto il servizio, oppure che è lo stesso ente, la stessa realtà che gli fa da ponte, da pista di lancio per arrivare a trovare un'occupazione. Credo che anche questo sia un aspetto che non ci attendevamo, che però dà il segno che in fondo, mettendosi in gioco, questi giovani riaprono delle opportunità, delle relazioni, forse scoprono, ne ho trovati diversi, scoprono di aver imparato, di avere una vocazione a fare determinate cose che non ci pensavano proprio, infatti. Insomma. No? Quindi è comunque l'idea di offrirgli un'opportunità di misurarsi con qualcosa di importante e poi da quello, come dire, può nascere qualcos'altro. Come si dice, da cosa nasce cosa. Infatti le indagini che abbiamo fatto ci testimoniano questo aspetto, che ci dice quasi il 90% dei ragazzi dice sì, lo rifarei, oppure lo consiglierei ad un amico. E insomma, ad un amico non si tira un bidone, no, normalmente. Eh no, certo. Quindi, credo che questo aspetto dà il significato di come l'esperienza, se è positiva, segna poi anche i passi successivi della vita. Sottosegretario Bob, andiamo agli aspetti un po' più concreti anche di questa esperienza, perché naturalmente se si porta a casa anche qualche soldino a questi ragazzi non dispiace di sicuro. Allora, oggi chi fa l'esperienza del servizio civile ha un piccolo riconoscimento economico mensile, e che cosa cambierà con il servizio civile universale? Dunque, il riconoscimento dell'indennità sono 433 euro esentasse, non ci sono contributi, non è un rapporto di lavoro, è un'indennità. Con il servizio civile universale non cambierà, diciamo, questa indennità, e quindi, diciamo, rimarrà ancora questo. Credo che sia un elemento che anche aiuta il giovane, appunto, a far sì che quella scelta abbia anche un minimo di riconoscimento di carattere economico, anche se appunto non è quello l'elemento principale, l'elemento decisivo. Certo, gli assegni, questa indennità è uguale per tutti i tipi di esperienza perché l'erogazione è centralizzata dal Ministero del Lavoro, oppure dipende, sottosegretario, dall'ente presso il quale i giovani svolgono il servizio? No, è uguale per tutti, l'unica forma di differenza è per quelli che fanno il servizio civile interamente in un paese, all'Italia, cioè all'estero. Lì allora ci sono, diciamo così, delle indennità più alte, ma solo perché sono 600-700 ogni anno sul totale, no? Quindi un numero ristretto. Per gli altri, per tutti è 43 euro, qualsiasi sia l'ente, la regione, il luogo dove svolge il servizio. Certo. Il servizio civile intreccia la sua vita anche con un'altra grande operazione, sottosegretario Bobba, che è Garanzia Giovani. Intanto, a che punto è questo piano europeo che ha riconosciuto all'Italia 1,5 miliardi di euro per fare in modo che, in particolar modo in IT, tutte quelle persone, tutti quei ragazzi che non sono impiegati nel suo percorso professionale, formativo e di lavoro, appunto, potessero essere inseriti in qualche maniera nel mercato del lavoro? So che appunto le due operazioni lo stesso hanno intrecciato il loro destino. In che modo e con che risultati? Dunque, Garanzia Giovani, 1,5 miliardi, 1 miliardo sono soldi comunitari, 0,5 miliardi li aveva messi il governo italiano, ancora era il governo Letta, ha raggiunto più di 1,2 milioni giovani, circa 950.000 sono stati interpellati dai centri per l'impiego, più di 500.000 hanno avuto una opportunità di formazione, di primo inserimento lavorativo o anche di fare servizio civile. Nel 2015 e nel 2016 sono stati 9.000 i giovani che hanno fatto servizio civile attraverso il programma Garanzia Giovani, e così abbiamo raggiunto anche una, diciamo, una fetta di giovani, una quota di giovani con minori opportunità, con più difficoltà a inserirsi nella vita sociale e lavorativa, ed è stata un'esperienza positiva che riproporremo anche con Garanzia Giovani 2.0, perché a settembre partirà, diciamo, la seconda fase di Garanzia, che avrà un finanziamento di 700 milioni, di cui 500 milioni da risorse comunitarie, e con le regioni abbiamo concordato che la misura servizio civile sarà ancora una delle comprese nel menu per realizzare il programma Garanzia Giovani, visto la buona esperienza che abbiamo fatto. Benissimo. In autunno ci sarà un nuovo bando proprio per questi giovani che vogliono fare servizio civile con Garanzia Giovani. Allora l'aspettiamo a settembre, sottosegretario, per venirci a raccontare la partenza anche di Garanzia Giovani 2.0. Intanto grazie stamattina per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Grazie, buona giornata a lei. Ricordo ancora il sito da dove si possono ricavare tutte le informazioni sul Servizio Civile Nazionale, www.gioventuserviziociviledazionale.gov.it, per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti in Italia e all'estero. Un saluto, a domani. A domani, buona giornata.